A me è sempre capitato così, che ogni volta che ho creduto di avere delle certezze, la vita è cambiata all'improvviso. Io non lo so se le cose capitano per caso oppure se è già tutto scritto, però nell'abitudine c'è qualcosa di infido e nella scoperta qualcosa di divino. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È lunedì 21 di febbraio 2011, sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. C'è qualcuno che si sta preparando, che sta aspettando e si sta preparando. C'è chi aspetta il primo figlio e apparecchia la stanza per il bambino. Chi prepara il primo esame e studia in un modo che ancora non sa come si fa. Chi sta per iniziare un nuovo lavoro e sistema le cose o ripassa i propri studi nella speranza che servano. Crearsi un metodo, è tutto lì. La seconda, la terza, la quarta volta che fai qualcosa ti spaventa di meno perché sai come affrontarla. Perché ti sei creato una metodologia per affrontarla. La prima volta invece fa più paura perché non sai proprio come avvicinartici a quella roba. Non sai quali sono le cose da fare e quelle da non fare. Non sai se quel passaggio è una perdita di tempo oppure no. Se è il caso di soffermartici su una cosa oppure su un'altra. Se ci si prepara ad un primo lavoro, ma anche ad un primo figlio, ad un primo viaggio, ad un primo matrimonio, oppure perché no, a una prima operazione. Tutto è talmente evanescente, è talmente misterioso, che chissà perché non lo dimenticheremo mai. Ecco perché se c'è qualcuno in questo momento che sta ascoltando questa radio, che sta ascoltando questo programma e sta aspettando una sua prima volta, qualunque essa sia, ed è proprio in quella fase lì, quella della preparazione, io sono qui. 800 24 0024 per telefonare in diretta oppure 349 238 6666. Sopravvissuti alla beat, sopravvissuti all'influenza di Tiziano Bonini. Siamo tornati qui, oggi è lunedì 21 di febbraio. Buongiorno a tutti, manca un mese alla fine di questo inverno e per ricominciare come al solito le stagioni. Non so perché ho fatto questo inizio tipo National Geographic, no? Sulla fine delle stagioni e sulla natura. Forse perché ieri ho visto un documentario che c'entrava al riguardo. Ma ieri, o meglio venerdì, è cominciato qualcosa di ben più importante per me ed è una sorta di nuovo inizio, è una cosa che un po' posso fare e un po' non potrei farla. Ve la racconto giusto perché siamo in confidenza. Ho cominciato a fare una piccola cosa part time la mattina presto, che è un altro lavoro, e sono arrivato totalmente impreparato. Ve ne ho raccontato un pezzettino venerdì quando ero in diretta dalla beat, ma era ancora tutto troppo fresco. Ci ho ragionato su con calma in questo fine settimana e ho capito più o meno come sono funzionate le cose venerdì scorso ed è per questo che oggi ve lo racconto. Però se c'è qualcuno di voi all'ascolto che si sta preparando per la sua prima volta, qualsiasi essa sia, che sia una cosa che poi diventerà una routine, come ad esempio appunto iniziare un lavoro, oppure prepararsi a un primo esame, oppure a un matrimonio, oppure magari anche partorire un figlio, e ha voglia di raccontarmi come si sta preparando, conoscete il numero 800 24 0024, perché in quella roba lì c'è qualcosa di che racconta un pochettino di noi, nel modo in cui ci prepariamo ad una cosa che non conosciamo. Perché alla fine, quando le abbiamo fatte più di una volta, quelle cose lì si trasformano in un metodo, no? Cioè lo istituzionalizziamo, decidiamo che allora per arrivare fino a quel punto facciamo così, poi a quel punto lì possiamo magari distrarci e fare un'altra cosa, fino ad arrivare al momento della partenza ed essere pronti e preparati. Quando invece quel metodo lì non ce l'abbiamo, o dobbiamo copiarlo da qualcuno o dobbiamo crearcelo e quindi inventarcelo. 800 24 0024, 349 238 6666. Olivia mi scrive ad esempio sul profilo Facebook: ci si prepara a guardare negli occhi per la prima volta il proprio figlio. Per 9 mesi mi sono immaginata quell'istante. Ho cercato di prepararmi ad essere madre focalizzandomi su quel momento lì. Ti prepari a cambiare, ti prepari ad osservare e a cercare di scrutare e capire l'emozione che ti passa per la testa. Poi, stanca del parto, mi sono trovata quel piccolissimo viso di fronte, quei due occhi che fissavano i miei, e pur sapendo che non era possibile, ho visto la saggezza e la consapevolezza nei suoi occhi appena aperti al mondo, come se il senso della vita ci fosse tramandato geneticamente. Vabbè, qui c'è un pochettino, diciamo, giustamente del miele che sgorga dalla bocca e dagli occhi di una madre che vede il suo primo bimbo. Però sì, è proprio di quello che stiamo parlando, della preparazione alla prima volta. Luisa: tra un mese arriverà una ragazza alla pari a casa mia. La conosco solo via email e vivrà con noi fino a settembre. 6 lunghi mesi di convivenza che spero ci riserveranno solo o soprattutto belle sorprese, ma chissà. Intanto lei sta preparando le valigie, io la sua stanza. Mi sto preparando a condividere i miei spazi, la mia casa, la nostra quotidianità con Ashley. Ah, bene, quindi sappiamo anche il nome. Speriamo in bene. Pascal mi chiede, vale anche la colonscopia? Pascal, se è la prima volta, è come se vale, anche se non conosco bene un metodo per avvicinarmici a quello. Però secondo me Nicoletta Carbone ne sa di più, magari chiediamo a lei domani in Essere Benessere. E poi Maria invece mi scrive una cosa che ha a che fare proprio con la preparazione, con l'abitudine e con i cambiamenti. Tra l'altro è Maria Teixido, credo sia spagnola. Lei mi scrive, c'era un artista concettuale tedesco, Wolf Föstel, che diceva questa frase: sono le cose che non conosci che cambieranno la tua vita. Ho sempre presente questa frase perché capita così. Saludos desde España. Desde si dice, Tiziano, è giusto? Perfetto. 800 24 00 24 349 238 6666. Poi, prima di raccontarvi com'è andata la preparazione alla mia prima volta, invece, prima c'è stata una piccola questione in redazione. Se è solo piemontese dire ti curo per ti tengo d'occhio? Sapete, no? Quando dite guarda che ti curo, guarda che sta per guarda che ti tengo d'occhio. Si dice solo dalle mie parti o si dice in tutta Italia? Perché Tiziano Bonini dice in Toscana non si dice, e se non si dice in Toscana non è italiano. Comunque sia, la mia prima volta, una delle mie prime volte, è stata venerdì mattina ed è andata così. Sì, venerdì è stato il mio primo giorno di lavoro, uno dei primi giorni di lavoro. E questo è il resoconto dettagliato, minuto per minuto. Ore 9, si aprono le porte. Fuori all'aperto ci sono 5 studenti, sono fatti su nelle sciarpe fino al collo. Sembrano usciti da una manifestazione contro la Gelmini. Insieme a loro 3 signori anziani che aspettano. Aspettano come solo i pensionati sanno aspettare, con quell'aria di attesa eterna. Ore 9:10, faccio la mia prima consegna. Un ragazzo mi chiede una copia di Amore e Psiche, di Apuleio. Ci metto circa 20 minuti a trovarla quando il tempo massimo è di 5. Lui però non ha fretta, nemmeno io. Quando lo trovo mi ricordo di averlo letto a scuola, Amore e Psiche, è solo che mi ricordo solo di averlo letto, nient'altro. Quindi butto un occhio sulla quarta di copertina. Psiche, bella figlia di Re, suscita l'invidia di Venere che manda da lei suo figlio Amore perché la faccia innamorare dell'uomo più brutto della Terra. Ma il dio se ne invaghisce perdutamente, la fa approdare nel suo palazzo incantato e la fa sua. Da allora ogni notte si unisce a lei, ma solo al buio e avendo cura di nascondere bene il volto nell'ombra. Una notte Psiche, istigata dalle sorelle, illumina con la lucerna il bel volto di Amore e ne rimane incantata. Però una goccia d'olio cade dalla lampada ustionando lo sposo. Il dio se ne va e Venere adirata sottopone Psiche ad una serie di prove durissime, finché Giove, mosso con passione, fa in modo che gli sposi possano ricongiungersi. Psiche viene assunta come dea fra gli dei dell'Olimpo, diventa sposa d'Amore e partorisce una figlia, Voluttà. Ore 9:30, consegno il mio primo libro allo studente di latino, pensando che non avevo capito proprio niente di questo racconto e di tutta la sua sensualità, altrimenti me ne sarei sicuramente ricordato. Ore 9:35, pausa caffè. Non lo bevo, ma faccio compagnia ai due colleghi alleati, Ciccio e Nonna Papera. Ore 9:40, pausa sigaretta. Non fumo, ma faccio compagnia ai due colleghi alleati, Ciccio e Nonna Papera. Ore 10, arrivano i quotidiani. Li sistemo ciascuno nel proprio posto insieme ai settimanali nuovi. Ore 10:04. Un'orda di pensionati scomposti ma silenziosi si lancia verso il tavolo della lettura per prendere visione delle notizie. Una cosa che manco al bar ho mai visto. Ore 10:45. Ed è circa mezz'ora che sono su Facebook. Mi sento un inetto, ma non succede niente e non mi va di fare quello che vuole lavorare a tutti i costi mentre gli altri non lo fanno. Ore 11:30, pausa caffè, faccio compagnia. Ore 11:35, pausa sigaretta, faccio compagnia. Ore 11:40. Insieme a Nonna Papera sistemo negli scaffali i libri consegnati in mattinata. Ecco, questa è la parte che al momento preferisco. Dovendo cercare i volumi in ordine alfabetico, mi tocca osservare tutti i titoli, tutti gli autori, e anche solo leggerne i nomi. Mi sembra di farmi una cultura. Per sistemare un testo di Leopardi, ad esempio, ho scoperto che esistono Monaldo Leopardi, Michele Lessona, Ambrogio Levati, Camillo Liberanome, Linneo, Carmine Antonio Lippi e Tito Livio. Ore 12:30, pausa caffè, faccio compagnia. Ore 12:35, pausa sigaretta, faccio compagnia. Ore 12:40, sistemo l'archivio insieme a Ciccio, che mi mostra come dividere i testi che sono in consultazione da quelli che sono solo in prestito. Ore 13, fine del mio turno. Pranzo con i colleghi e fine della mia prima giornata di lavoro. Il primo giorno di qualsiasi cosa tu debba fare è sempre una giornata speciale. Credo che questa sia una cosa che alla fine hanno provato tutti. Il primo giorno di qualcosa ti fa sentire come al primo giorno della vita. Le novità sono il contrario della routine. L'abitudine e la prima volta non vanno d'accordo, eppure ogni volta è semplicemente il modo per gettare le fondamenta della futura abitudine. In ogni nostra prima volta c'è sempre un'analisi molto attenta di tutto quello che facciamo, di tutto quello che accade. Ogni piccola nuova esperienza, ogni passaggio, ogni step che possa trasformarsi in una sequenza da seguire sono appigli a cui aggrapparsi. Leggere la posta appena arrivati al lavoro, poi due chiacchiere con il collega, quello simpatico, un caffè, poi prima le cose noiose, da fare subito, quasi in apnea, che tanto sai che si riproporranno, e allora meglio non lasciarle indietro. Poi il pranzo, che alla fine fare quattro chiacchiere è sempre divertente. E il giorno dopo, ancora, e ancora, e ancora. Cambiano gli ingredienti, ma non il sapore della zuppa. Il fatto è che la prima volta in palestra, o in montagna, la prima volta a casa dei suoi o in un paese straniero, danno la stessa sensazione. Le cose che si fanno, si vedono, si sentono sono diverse, sì, ma l'atmosfera dentro di noi è sempre la stessa. È quella che si sente spiazzata ad ogni passo, ad ogni nuovo gesto, ad ogni nuova informazione e che in quel groviglio di novità cerca una sua strada. Qualche anno fa ho fatto un corso di arrampicata. Ero in Umbria, in un posto che si chiama Ferentillo, e il mio istruttore si chiamava Andrea. Era un arrampicatore professionista e aveva da poco iniziato a fare il regista, voleva fare dei film. Lui non mi dava moltissime indicazioni tecniche, semplicemente mi consigliava come affrontare un passaggio, come aggirare un ostacolo, dove spingere. Ricordo che di quei giorni di lezione, di quei giorni di lotta con le falesie, mi rimane più che un ricordo una sensazione, ed era proprio quella lì. Era quello dello spaesamento da prima volta. Cioè, quando iniziavamo a salire su una nuova via, una che non avevamo mai affrontato, ecco lì ogni spuntone, ogni piccolo buco, potevano essere un appiglio, però anche un intralcio. Se sceglievi quello giusto andavi avanti, se ti attaccavi a quello sbagliato, potevi rimanere lì, appeso tutto il giorno. Ecco, al di là della paura della caduta e dell'apprendere una tecnica decente, il fatto di trovarsi di fronte ogni volta ad una novità così estrema, così determinante, era una prova più psicologica che fisica. Erano percorsi nuovi che non conoscevi, non avevi movimenti precostituiti o piccoli passaggi che già conoscevi, tutto era nuovo, tutto era per la prima volta. E la cosa che ancora oggi mi stupisce, ripensando a quel brevissimo corso di arrampicata, è che quando tornavamo su delle vie che avevamo già fatto, l'idea di essere preparati a quell'arrampicata era comunque sbagliata. Perché se la seconda, la terza, la centesima volta che fai una cosa, anche andare al lavoro a fare la stessa cosa che fai da giorni, ecco, anche se quella roba lì ti sembra facile, c'è sempre qualche piccolo dettaglio che cambierà ed è pronto a stravolgere le tue convinzioni, prima o poi, presto o tardi. A me è sempre capitato così. Ogni volta che ho creduto ad avere delle certezze, la vita è cambiata all'improvviso. E io non lo so se le cose capitano per caso oppure se è già tutto scritto, però nell'abitudine c'è qualcosa di infido, nella scoperta qualcosa di divino. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e mi dicono nella bassa bergamasca ti tengo d'occhio, si dice come, però non è ti tengo d'occhio la questione, è ti curo, cioè ti sto curando, che non sta per mi prendo cura di te, ma è proprio ti tengo d'occhio, ok, nella bassa bergamasca mi scrive lui, e infatti temo che abbia ragione Bonini, che se non si dice in Toscana non è italiano. Mi sto preparando a fare l'apicoltrice con mio fratello, fammi gli auguri, Elisa, auguri. Ciao Matteo, mi sto preparando all'idea della mia prima casa di proprietà, Mari, Sesto Fiorentino. Io faccio tutt'altro invece, mi scrive Guido, quando sono prossimo ad una prima volta. scusate, l'ho letta male. Cioè Guido mi dice che quando lui Star si avvicina per la prima volta pensa ad altro e fa tutt'altro per arrivarci al naturale. Beh, perché altrimenti come ci arrivi, Guido? Mi domando come... Sto aspettando con ansia l'arrivo della mia macchina nuova e va bene. E poi Giulia, da Como, sto aspettando di trasferirmi su una barca a vela con marito e figlia di 6 mesi a girare il mondo. Sarà tra un anno. Però tra un anno, è un po' come... Ecco, l'anno prossimo mi sposo, tra un anno. In questi giorni stiamo cercando il posto per il ricevimento, un bel posto che ci piace e che piace anche ai nostri ospiti. Quante ansie per far sì che tutto sia perfetto. Poi, nonostante i nostri sforzi, qualcosa andrà comunque storto. Grace, facci la pace, perché qualcosa andrà storto sicuramente. 800240024. Oggi mi ha scritto questo messaggio Paola. Io sto preparando la mia prima maratona. Roma, 20 marzo, il fisico è pronto, la testa no. Pronto Paola? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, te? Io bene. Se, ma bene te non è romano però, No. Tu di dove sei? Da Vicenza. Ah, ok. E vai a Roma apposta per la tua prima maratona? E vado a Roma apposta per la maratona. Ma sei... prossimo. Quando è che... Quanti anni hai, Paola? 32. Quando è che ti è venuta sta cosa della maratona? Di solito vieni in età adulta, ho notato. Mi è venuta la settimana prima del mio compleanno, sai, in quelle fasi un po' depressive in cui devi decidere cosa fare, darti un senso. E quando era il tuo compleanno però? In dicembre. Ah, quindi è da poco, cioè... 4 mesi fa. Ma quanto dura la preparazione alla maratona, scusami? 4-5 mesi in teoria, poi dipende, vabbè, a che livello sei. Vabbè, ok, però di fatto credo che il tuo livello sia portarla a termine. Sì, il mio livello è arrivare, sì. Senti, quante volte corri al giorno e quanti chilometri fai? Praticamente corro 4 volte alla settimana. E di solito sono sono diversi allenamenti. Di solito la domenica mi riservo l'allenamento più lungo, che va dai 20 ai 30, 35 chilometri? Sì. In quanto tempo li fai 35 chilometri? 3 ore, 3 ore e un quarto. Quello si chiama il super lungo, l'ho fatto 2 settimane fa. Beh, mi sembra un ottimo tempo. Non ti passa mai, ma non ti passa mai. Beh, lo immagino, cosa fai? Ascolti musica, stai con altra gente? Dipende, perché in teoria non potresti neanche portarti le cuffiette perché non vogliono troppo. Ah, è vero, ma perché è considerato doping, tipo. Esatto. Ma anche a Roma? Sì. Cioè, in tutte le maratone non si può più portare la musica? Le gare ufficiali non ti lasciano, poi vabbè, mi hanno detto altra gente con cui ho parlato che loro, cioè, lo puoi fare, però non potresti. Senti, e questo metodo qua, quello che stai seguendo un metodo, giusto? Beh, ho stampato una tabella via internet perché oltretutto, cioè, io sono da sola, perciò... facendo un po' fai da te, un po'... Senti Paola, tu che cosa fai nella vita? Sono un tecnico informatico. Ah, lavoro molto sedentario, come vedi. Beh, come immagino più che altro. Senti, tu quindi hai deciso di farlo, c'è stato un motivo, una causa scatenante al di là del tuo 32esimo compleanno? Che poi è il 30esimo o il 40esimo quello della crisi, giusto? Non lo so, forse l'ho avuto un po' più tardi. No, cercavo una cosa da fare e ho detto, ma sì, mi iscrivo alla maratona. Perché poi appena ti iscrivi hai sto mese di grande euforia in cui ti sembra così facile. E poi che... E poi pian piano si avvicina la data e ti rendi conto che poi non sei così. Beh, però 20 marzo ormai è proprio un mese secco, anzi un po' di meno, perché era febbraio... Era un mese ieri. Era un mese ieri. Senti, tu hai fidanzati... No. Niente, è su questo velo di malinconia, Paola. No, ma sai... no, guarda, la maratona, mi dicevano comunque, è come avere il cane, che serve anche per quello. Nel senso, scusa... Nel senso che incontri un compagno. Ma vanno tutti di corsa. Vabbè, ma provi a correregli dietro. Paola, esatto. Grazie mille, in bocca al lupo. Facci sapere come ciao, va tra un mese la maratona. Grazie. Il tempo. Ciao, grazie. Ciao. 800240024, 0024, la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi non so esattamente dove siamo. Siamo sicuramente in mezzo alla natura, perché ci sono delle piante e anche un pochettino in un'altitudine, non è montagna, probabilmente è collina, potrebbero essere 100-200 metri sul livello del mare. C'è un cavo della luce, c'è un palo che attraversa la foresta, c'è un cielo azzurro striato di nuvole, ma proprio non so dove potremmo essere. Matteo Pini, 30 anni. Quando è sereno si vede il mare da Monte Colombo, una piccola casa isolata in mezzo al bosco nell'Appennino poco sopra Forlì. Io sono qui. Ecco, sai Matteo, però avrei preferito, cioè mi avrebbe divertito di più vedere la casa più che quello che si vede dalla casa. Nel senso che stanno arrivando tantissime foto e tutte molto belle, di paesaggi nevati, paesaggi col cielo azzurro, paesaggi con i boschi, con il mare, con le strade e la campagna. Però se invece mi raccontate dove siete attraverso una foto di casa vostra, del vostro studio, della vostra camera da letto, del vostro bagno, del vostro ufficio, probabilmente dice qualcosa di più di voi rispetto ad una bellissima foto che potrebbe stare su una cartolina. Io sono qui, @radio24.it per spedire le foto, oppure sul profilo Facebook che è sempre quello ed è Matteo Caccia, io sono qui. A questo proposito poi chiudo, c'è un profilo Matteo Caccia che era quello del programma prima, non posso più concedere l'amicizia perché ho raggiunto il tetto massimo, e c'è un profilo diverso che è Matteo Caccia, io sono qui, cliccate mi piace lì ed è tutto come se fosse. Ti tengo d'occhio, in Toscana si dice come, caro Bonini? Si utilizza come sinonimo di ti controllo. Saluti da Mirko Capacci di Arezzo, mi dice anche nome e cognome. Nel Veneto orientale si dice sta attento che te cure, ovvero sta attento che ti tengo d'occhio. Nel Varesotto ti curo si dice, vabbè, ma perché siamo insomma Novara e Varese alla fine. Io ti curo non l'ho mai sentito, Francesco da Lucca. Vabbè, adesso però c'è qualcuno più attento e qualcuno no. Poi Paolo invece mi scrive, non sono proprio d'accordo che la prima volta di tutte le cose sia una sensazione meravigliosa. Il primo giorno di scuola dopo le vacanze è sempre una tragedia. Andiamo però a sentire Martino che sta per affrontare una prima volta ed è abbastanza allo sbaraglio. Pronto Martino? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, raccontami qual è la tua prima volta. Stai per fare cosa? Rappresentante di colori, vernici, smalti. E come ci sei arrivato a fare rappresentante di colori, vernici e smalti? Beh, c'è da dire che questo è un secondo lavoro, perché io faccio l'insegnante di educazione fisica. E allora quindi... ha maggior ragione, come ci sei arrivato a fare il rappresentante di vernici? Beh, siccome a me piace molto far da sé, sono sempre in giro per ferramenta, colorifici, e così parlando con un negoziante... Ma sì, vai in giro a fare il rappresentante, t'ho detto. Sì, ti piacerebbe fare il rappresentante di colore, allora io ho detto subito di sì. E quando c'è il tuo primo appuntamento? Ecco, io ce l'avevo proprio oggi pomeriggio, ascoltando la tua trasmissione, ho detto adesso lo chiamo, e prima di entrare dal mio cliente voglio parlare con Matteo. Invece mi hai chiamato prima, sono entrato e mi hanno dato l'appuntamento per giovedì prossimo. No, è slittato? Sì, è slittato l'appuntamento. Senti, ma cosa avresti detto più o meno? Cioè, ti eri preparato un discorso? No. Avrei detto, sono Martino del colorificio, e vorrei proporvi i nostri prodotti. Ma dimmi un prodotto particolare che hai tra i tuoi. Non so, lo smalto all'acqua. Qualche roba antimuffa? Sì, quello sì, sicuramente. Però questo è un cliente particolare, questa è una fabbrica di... e di serbatoio. Vabbè, insomma, comunque è tutto rimandato a giovedì. Sì, sì. E poi domani mattina invece facciamo fare dei bei 2000 metri a questi studenti che non corrono. Beh, sì, sì, anche questo ci sta bene. Martino, grazie mille, buona giornata, in bocca grazie al lupo. Te. Ciao, grazie. Io sto aspettando di andare in Polinesia per la prima volta, non vedo l'ora, partenza 8 aprile. A me piace provare droghe nuove, ma purtroppo le ho fatte passare tutte, per me non è più nulla di nuovo. Peccato Marco da Mantova. Ah, Marco, magari è anche meglio così, no? Così la smetti. Andiamo a Marta, da Marta a Milano. Pronto Marta? Pronto, ciao, sono Marta. Ciao Marta, e io sono Matteo, quindi credo che ci siamo trovati. Tu stai aspettando qualcuno che arrivi dal Burkina Faso? Sì, io ho vissuto in Burkina Faso tanti anni. Ma come mai, famiglia, Marta? All'inizio per piacere, poi l'ho trasformato in un lavoro e... Scusami la domanda, perché una per piacere va in Burkina Faso? Perché mi sono ritrovata ad avere un interesse particolare per l'Africa. Ci sono stata per caso per la prima volta tra la Costa d'Avorio e il Burkina Faso e poi le mie aspettative sono state fortemente confermate. Cioè dove è? A Ouagadougou o...? No, a Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, che è un altro posto del... Okay. Esatto. Ma che cos'è? È una città? È un villaggio? È una città, è la seconda città, la capitale è Ouagadougou, e invece questa seconda città è una cittadina più piccolina, come l'equivalente di chi vive a Parma per un milanese, cioè una cittadina molto a misura d'uomo. E che cosa ci facevi a Bobo-Dioulasso? Con un gruppo di amici teatranti di Milano, lavoravamo con un gruppo di teatranti di lì, in realtà artisti, per cui teatro, danza, musica, e abbiamo costruito un centro di formazione artistica là, che adesso è gestito da un gruppo di artisti locali. Senti, e adesso tu stai aspettando cosa esattamente? Sto aspettando di ospitare la mamma locale che mi ha, che, dalla quale è stata ospite tutto il tempo in cui ho vissuto là, per e cui che... la mia mamma locale. E che non vedi da allora? Che non vedo da diversi anni, sì, da 5-6 anni, siamo in contatto frequente, ma la mia vita è molto cambiata da allora, mi sono sposata, ho una bimba e loro, né mio marito né mia figlia, naturalmente perché aveva pochi mesi, hanno mai... Senti, ma immagino anche che lei non sia mai venuta in Italia. Lei non è mai venuta, no, lei non è mai venuta, ha un figlio sposato in Italia, ha altri due figli che sono venuti diverse volte, e però lei non c'è mai venuta. Marta, ti faccio in bocca al lupo per la permanenza della tua mamma del Burkina Faso. Grazie infinite. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Sto andando a comprare per la prima volta l'anello di fidanzamento, dice Leonardo. Poi invece mi è arrivata una mail, un messaggio su Facebook di Beatrice che si riprepara ad una sorta di prima volta. L'avevo desiderato tanto, perché era una questione di prestigio, perché tutti i miei colleghi ce l'avevano, perché speravo che avrebbe dato uno slancio al mio lavoro. Ricercatore senza fondi presso un ente di ricerca. Perché avrebbe accresciuto la mia autostima e mi avrebbe aiutato a dimagrire. E alla fine, l'anno scorso, l'ho ottenuta. La mia prima docenza a contratto presso un'università. Mi sono organizzata con le ore di lavoro e con i giorni di recupero, con gli orari dei treni, con la foresteria per il pernottamento, con la segreteria didattica che mi ha fornito i nomi degli studenti. Organizzazione perfetta e non più di un'ora e mezza di lezione. Era la prima volta che organizzavo le mie lezioni e mi sono resa conto che non era per niente facile riuscire a coprire tutto il programma del mio insegnamento in 25 ore. Ma la cosa che mi ha fatto sudare freddo è che non ricordavo tutto. Ho dovuto ristudiare da capo alcune cose. Comunque è andata bene, gli studenti erano tranquilli e interessati e a parte qualche momento in cui mi sono mostrata un po' incerta, la cosa è filata liscia. Quest'anno ho ottenuto di nuovo l'incarico e così sto rimettendo in moto il meccanismo organizzativo. Sono sempre un ricercatore frustrato, senza fondi. Il mio prestigio e la mia autostima sono cresciuto un pochino. Ricordo un po' di più degli argomenti delle mie lezioni e sono sempre grassa. Insomma, nessun cambiamento nella mia vita. Solo una cosa. Ho cambiato il libro di testo. Ringrazio Beatrice che ha scritto questo messaggio. Ringrazio Tiziano Bonini che è tornato tra noi, Roberto Scaltritti e Claudia Carusi che oggi è da sola con noi. Ringrazio quelli che mi hanno scritto, c'è gente che si prepara ad una prima volta a fare il cammino di Santiago, c'è gente che si prepara purtroppo a una prima volta senza lavoro. È la prima volta che mio figlio torna da solo da scuola. È grande ormai, che emozione, Nita. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?